sola al buio, tu poi mi chiamerai. Cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti un granello. Di sabbia così tu, nella nebbia più cucina potrà. E canzo mezzo restirai, ai, ai, ai, ai. Ti voglio tenere, tenere, legati con un raggio di sole, così con suo calore la nebbia svanirà dal tuo cuore, riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirai. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai, ma sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ci bagno con l'are, posandoti sull'onda del mare, legandoti un granello. Di sabbia così tu, nella nebbia più voci non potrà, e mai più freddo sentirai. Con un raggio di sole così con suo calore, la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirai. Sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Se vuoi accollare, accollare, posandoti sull'onda del mare, legandoti un granello di sabbia così tu, nella nebbia più voci non potrà.